Siamo in collegamento telefonico con il nuovo Cinema Palazzo per parlare della 3 giorni del settimo compleanno, il 13 e 14 e 15 aprile. Ben ritrovati, benvenuto. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto io partirei brevemente dall'esperienza del nuovo Cinema Palazzo, diciamo com'è nata questa esperienza. È un'esperienza nata da un comitato di quartiere che c'era all'epoca, che era, si chiamava San Lorenzo Cambia, Cambia San Lorenzo, che insomma continuava a costruire delle iniziative in quartiere, e con iniziative soprattutto in Piazza dell'Immacolata, che già allora insomma spesso c'erano insomma dei problemi, quindi si cercava di creare delle iniziative lì in piazza. A questo si aggiunse la notizia che volevano aprire un casinò al Cinema Palazzo, un luogo che per tanto tempo era stato chiuso, dopo era stata una sala biliardi, e che nel 2001 fu aperto per 6 mesi e poi richiuso per riciclo di denaro un bingo. Era stato detto qui apriremo un casinò, ecco. Probabilmente quello sarebbe stato il punto di non ritorno, almeno per questo quadrante del quartiere, e abbiamo deciso perché non provarci per 3 giorni almeno a sensibilizzare il quartiere, a stare là dentro e capire che c'era uno spazio che può essere utilizzato in un altro modo. E dietro questa società che voleva fare questo casinò c'era la Camene Spa, che era legata alla Stutte, che era la fiduciaria di Anemone e Balducci, insomma quelli che vedevano quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, piuttosto che quelli del Salaria Sport Village, e fondamentalmente abbiamo detto rimaniamoci un po', e sono 7 anni ormai che siamo lì dentro, siamo in tanti e tante cose sono state costruite in questi anni. È una piccola vittoria fino adesso di una lotta in questo quartiere, in questa città, contro le speculazioni e il gioco d'azzardo. Senti, per chi non lo conoscesse, quali attività adesso state svolgendo lì dentro? Beh, la settimana del Cinema Palazzo è abbastanza scandita, diciamo che le mattinate sono dedicate alle compagnie che creano qui, producono i loro spettacoli attraverso una sorta di bando, ma che si chiama contrabbando, che facciamo che ogni anno, ormai è la terza edizione, e poi c'è il martedì che è dedicato più all'attività della Libera di San Lorenzo, con iniziative per i bambini e il laboratorio teatrale di Dina, messo tra le varie assemblee e iniziative. Il mercoledì è dedicato allo quindi alla Gradico San Lorenzo, e mentre giovedì, venerdì, sabato, la domenica, insomma tutti gli altri giorni sono appannaggio delle varie proposte che ci arrivano, proposte che sono dalle più variegate, insomma sia di progetti più specifici creati dentro Cinema Palazzo, sia da proposte che vengono da soggetti vicini o lontani che hanno voglia di fare qualcosa in questo spazio a San Lorenzo. Qual è adesso la situazione, sia rispetto all'amministrazione che alla proprietà? La situazione rispetto all'amministrazione è nulla, cioè, nel senso noi sono ormai 7 anni che non abbiamo nessun tipo di trattativa con le istituzioni, perché insomma, dopo un primo periodo in cui questo posto fu occupato durante la giunta Alemanno, quindi naturalmente tanti salivano sul carro dell'opposizione insomma, al sindaco fascista di Roma, quando è cambiata l'amministrazione, questo interesse al Cinema Palazzo non c'è stato. Devo dire anche la verità che forse non l'abbiamo mai cercato neanche troppo, perché significherebbe stare a determinati giochi che non fanno parte, insomma, del nostro modo di intendere non solo il modo di gestire un posto, ma anche la vita. A fianco a questo c'è un processo, il secondo che si apre, che si è aperto per 12 occupanti del Cinema Palazzo, una varietà molto larga di soggetti, e dopo una prima assoluzione che noi abbiamo avuto nel febbraio del 2013, in cui insomma, il processo civile aveva detto, stranamente un giudice per una volta aveva detto che noi stavamo ridando la destinazione d'uso originale dello spazio e non c'era nessun tipo di guadagno da parte nostra su quello che stavamo facendo, ma stavamo ridando semplicemente uno spazio al quartiere. Sen E adesso sì. il processo che si apre è naturalmente c'è una richiesta di danni da parte della Camaina di circa 3 milioni di euro. Questo è secondo loro il mancato incasso che hanno avuto rispetto, insomma, mancato incasso del Cinema Palazzo, di quello che ci volevano fare dentro. E insomma, il processo siamo sicuri che insomma, usciranno molte cose, come già abbiamo fatto uscire, in cui la Camene non aveva nessuna autorizzazione, nessuna concessione per quanto riguarda l'uso del Cinema Palazzo come negozio di giochi, questo nome che si sono inventati per coprire i casinò, e soprattutto insomma, nessuna autorizzazione, nessuna concessione, ma neanche la possibilità, rispetto a vari regolamenti, di poter creare un casinò dentro un quartiere. E questi sono insomma, lo stato attuale per quanto riguarda l'amministrazione, ovvero nullo, e un processo che invece è in atto, ma per cui siamo molto fiduciosi. Allora, torniamo invece al lato propositivo. Su quali progetti al momento siete impegnati e state lavorando? I progetti, insomma, diciamo che sono dei progetto, un progetto teatrale, sicuramente è quello di Sgombro, che è un varietà che si è creato appunto semplicemente con l'incontro di vari artisti e compagni dentro il Cinema Palazzo, ma nel quartiere, e loro citano sempre la Tana Sarda come altro luogo, insomma, non vorrei fare pubblicità Sì. del loro incontro, ma che da ormai quasi 2 anni porta una volta al mese, oltre, insomma, attorno alle 200 persone ogni volta a vedere questo spettacolo che è sempre diverso. Poi c'è il Festival di Storia, che è insomma, una cosa creata fin da subito per quanto riguarda appunto un approccio alla storia che non sia solo un approccio verticista, ma che sia invece una creazione collettiva in cui storici sì, studiosi sì, ma anche semplicemente appassionati o persone che hanno voglia di impegnarsi nella costruzione di questo festival, ogni anno lo fanno. Poi c'è il Palazzo dei Bambini, in cui c'è una grossa collaborazione con il Movimento Cooperativo per l'Educazione, insomma, che appunto su un'idea di educazione orizzontale, anche lì non verticista. Ci sono anche altre cose per noi magari più goliardi che simpatiche, come può essere BET, che è il torneo di Briscolette 3-7, che organizziamo insieme a Elio e Germano, in risposta proprio al gioco d'azzardo, perché crediamo che insomma. In verità, quando fu occupato il cinema, all'epoca andavano di moda questi canali Poker Stars, insomma, varie sfaccettature di questi personaggi stravaganti col cappello e gli occhiali che giocavano a poker e sembrava chissà che facevano. Ecco, per noi, insomma, abbiamo un po' riutilizzato quella tecnologia delle quattro videocamere, insomma, di una telecronaca appunto fatta ad Elio per far vedere che forse magari è più interessante giocare in coppia, non da soli, ma i segni della briscola forse sono più divertenti di un occhiale da sole che nasconde il bluff. Senti, in Quindi, chiusura, come saranno articolati i 3 giorni del 13, 14 e 15? la proposta è varia, come sempre, è una 3 giorni per ricordare appunto i 3 giorni in cui dovevamo stare dentro al cinema, che saranno il 13, il 14 e il 15. Il cinema, lo ricordiamo ancora una volta, è stato occupato il 15 aprile con insomma, una notizia bruttissima che era arrivata quel giorno, che era stato ucciso Vittorio Rigoni. La sala interna è dedicata infatti a lui. Comunque, ritornando alla programmazione, il 13 appunto ci sarà Sgombro in una special edition, perché appunto l'unico sgombro che ci piace è quello che facciamo qui al Cinema Palazzo, naturalmente anticipato da una cena sociale. Il 14 sarà un dibattito a cui teniamo molto sulla questione del gioco d'azzardo, in cui verrà Maurizio Fajasco, presidente di Alea e sociologo, che su questo tema lavora e ha lavorato e lavora molto, legato però appunto a Sara Gainsford, le due inchieste che ha fatto insomma, sulla Tiburtina Valley, piuttosto che adesso più sul quartiere, sulla Dogana, una giornalista amica e compagna, e Rossella Martini, un urbanista che ci mi illustrerà un po' come dentro la città queste cose, questi casinò stanno devastando vari territori. E la sera ci sarà un concerto, perché appunto questa è un'altra delle piccole tradizioni che mettiamo in atto. Saranno ospiti Filippo Gatti, Lucio Leoni, Le Cardamomò, No Senso e Montelupo. Sono loro cinque che saliranno sul palco. A seguire un DJ set di Mojo Station, che è un altro progetto con cui collaboriamo da molto tempo. E poi la domenica, insomma, con tutta calma, facciamo questo pranzo in piazza, in Piazza dei Conniti, dove è molto più bello avere un tiglio, un cibo, un fiore, piuttosto che quelle strisce blu, che non sono spazio dove incontrarsi. E terminerà appunto con questo spettacolo organizzato dal Palazzo dei Bambini, uno spettacolo che è appunto dedicato ai più piccoli, ma che parlerà di viaggi e di speranze. Cioè, naturalmente il tema della migrazione sarà centrale di questo tema, cercando anche di un po' di rilanciare verso il 25 aprile di San Lorenzo, in cui appunto il nome che abbiamo scelto, insieme a tante altre realtà del territorio, è A San Lorenzo nessuno è straniero. Per seguirvi in rete c'è la pagina Facebook e il sito internet. Sì, anche un continuo aggiornamento in questo periodo. In alcuni momenti, naturalmente, essendo tutto volontario, è un po' più rallentato, ma insomma, adesso trovate proprio tutto, è un continuo aggiornamento. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Viva il lupo e grazie mille, buona serata.